Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti, buona Pasqua. Rieccoci quindi con una nuova puntata di Personal Best, puntata che, come ormai succede da qualche settimana, trasmettiamo ognuno dai rispettivi rifugi casalinghi che oggi hanno più o meno una forma di un uovo di Pasqua. E dal suo rifugio casalingo è collegato con noi il nostro ospite di oggi, lo psicologo dello sport Pietro Trabucchi. Ciao a tutti, buongiorno. Anch'io sono nel rifugio casalingo, come ecco. Voi. Pietro, come stai e come stai vivendo questa situazione? Ma si va avanti sempre. Io poi devo dire, sinceramente, sono un po' abituato già all'isolamento perché vivo in un posto isolato, per cui quando devo fare una battuta dico che prima contavo una macchina all'ora, adesso c'è una macchina ogni 2 ore, questa è la differenza. Okay. Però devo dire che prima a casa non ci stavo quasi mai, perché ero sempre via per lavoro, perché il lavoro mi porta sempre abbastanza lontano, invece adesso sono sempre a casa. Ecco, questa è un po' la differenza. Allora Pietro, nelle scorse settimane qui a Personal Best abbiamo affrontato il tema del coronavirus, sempre legato alla corsa, allo sport, perché questo è il nostro ambito, in tutte le sue declinazioni: gli atleti professionisti, le olimpiadi, le gare, come mantenere la forma a casa e anche come impostare la nostra alimentazione. Ora le settimane a casa sono diventate mesi e qui entri in gioco tu, anche perché, come abbiamo sentito anche degli aggiornamenti del GR qui a Radio 24, la situazione attuale continuerà almeno per altre 3 settimane. Dobbiamo dar fondo a tutta la nostra resilienza. Sì, chiaro. Mai ci fu un'occasione in cui questa parola fu così attuale. Veramente adesso ormai la conoscono tutti, perché la resilienza è un po' la capacità di tenere duro, no? Di adattarsi alle situazioni difficoltose, quella di non perdere la motivazione. Quindi sono d'accordo, qua è venuta fuori la resilienza di tutti, no? Cioè, prima magari erano un po' le persone che si mettevano da soli in situazioni difficili, no? per sfida, per scommessa o anche perché gli portava la vita. Adesso, come dire, è una situazione di resilienza di massa, sì. E quindi necessaria, diciamo. Necessaria, e forse anche in qualche modo è chiaro che sarebbe stato meglio, che tutto il rispetto per le morti, la sofferenza che c'è stata, questo in dubbio, però forse qualcosa di buono ci sarà, e sarà proprio questa capacità di aver superato una situazione che, come dire, ha messo un po' con le spalle al muro tutti noi, no? E quindi ci porteremo a casa qualcosa in più che altrimenti magari non avremmo conosciuto. Più che altro la cosa brutta e difficile, Pietro, è il fatto di non avere comunque una data certa, no? Sai, uno ti dice vabbè, stai un mese a casa e poi tutto insomma ritorna un po' come prima. Invece così, insomma, adesso continuo ovviamente a rimandare, ed è difficile, no? Secondo me, per l'essere umano, questa concezione, no? Cosa dici? Come possiamo anche allenare un po' la resilienza in questo periodo? Sì, è assolutamente così. Cioè, in effetti qua viene fuori una differenza. La capacità di navigare nell'incertezza non è una cosa che abbiamo, come dire, già tutti in partenza. Quando ci sono delle certezze, quando le persone sanno le date di scadenza, quando uno ha delle soluzioni pronte in mano, è tutto molto facile. Diciamo, nella storia sono ricordati anche come esempi di leadership, quindi persone che hanno saputo tenere la rotta e andare avanti anche in situazioni di grande incertezza, di mutamento, no? Cioè continuo. Oggi siamo tutti un pochino chiamati a fare questo, per cui non sappiamo quando e come torneremo alla, tra virgolette, normalità, però il pericolo è un po' la tentazione di lasciarci andare nelle piccole cose che poi fa da sfondo a un'altra tentazione più pericolosa, che è quella di disperarsi, no? Di lasciarsi andare allo sconforto, di non fare più quello che dobbiamo fare, no? E quindi credo che si debba lavorare su questo. Per esempio, un consiglio che io do spesso in questo periodo è quello di assolutamente, per esempio, crearsi delle routine quotidiane, no? Cioè non cominciare la giornata così, datti una routine quotidiana, quindi metti comunque la sveglia, segnati tutta una serie di cose, datti degli obiettivi. Oggi gli obiettivi a lungo termine sono incerti, noi noi non sappiamo. Secondo me la storia degli atleti che hanno visto rimandare le Olimpiadi di un anno è molto illuminante su questo. È chiaro che loro gli obiettivi a lungo termine, specialmente fino a quando non era stata rifissata la data delle Olimpiadi, non ce l'avevano. Ma questo non vuol dire che, cioè, il pericolo era quello di dire ok, allora ci lasciamo andare. No, la tua routine quotidiana ci deve essere lo stesso. Mi viene a fare un paragone in questi casi, visto che noi parliamo sempre di runner, cioè meglio sapere subito di dover fare 50 km o scoprire solo al 30° km che la gara non è ancora finita e andare avanti, partendo dal presupposto che non siamo preparati né per fare 30 km né per 50, insomma. Cioè, quindi meglio sapere subito la distanza che ci aspetta o scoprire un po' per volta, come in questo caso, insomma. Beh, allora, se dovessi rispondere da un punto di vista scientifico, sono stati fatti numerosi esperimenti sulla percezione della fatica, no? Voi sapete che la fatica non è oggettiva, ma è una percezione, no? E quindi ci sono degli esperimenti celebri che dimostrano che quando la fatica è inaspettata, per esempio, io sono convinto che il traguardo sia fra 5 km, poi scopro che ho sbagliato strada oppure ho sbagliato a calcolare i chilometri, ne devo fare il doppio, la sensazione di fatica a parità di consumo, di costo metabolico, no? di lavoro che devo fare, è molto più alta. Quindi ti direi che sicuramente scoprire che manca di più è più faticoso, però a volte devi, come dire, devi essere resiliente, devi tirare dritto lo stesso. Quindi noi non sappiamo quanto andremo avanti in qualche modo. Sì. Ma poi non è solo questione, secondo me, della data, no? La data che ci libererà, e anche dopo tutto sarà un po' incerto, un po' nella nebbia, cioè dovremo ricostruire gli obiettivi, dovremo ricostruire un sacco di cose. E lo scherzo è quello, sai, è per quello che la gente si arrabbia quando arriva al traguardo e se la prende con quello che gli ha detto, magari in buona fede, mancano 500 metri e poi erano 2 km. Quello capita sempre. È molto più forte. E noi dobbiamo stare attenti, appunto, a non farci fregare da quelli che ci dicono che mancano 500 metri e magari ne mancano ancora 10 i chilometri. E quindi in questo periodo, appunto, dobbiamo mettere in gioco la nostra assolutamente motivazione, no? La nostra automotivazione, motivazione intrinseca. Quindi, come dici tu, farsi una propria routine giornaliera e poi micro obiettivi e cercare di automotivarsi il più possibile per riuscire a, appunto, andare avanti e a crescere anche in un periodo di difficoltà così. Sì, assolutamente, perché noi siamo abituati, rispetto alla motivazione, spesso a vivere dentro organizzazioni, dentro strutture che in qualche modo fungono da motivazione esterna, no? Perché devo rendere conto a qualcuno sul breve termine, eccetera. In realtà noi dobbiamo lo stesso rendere conto a noi stessi o ad altri, però il pericolo è che qua il conto arriva più avanti, arriva dilazionato, no? E questa cosa può un po' fregarci, cioè diciamo, beh, ma insomma, non vedo nessuno, quindi mi rilasso. No, non bisogna rilassarsi. Quindi, come dici tu, bisogna lavorare molto sull'automotivazione. Quindi è per questo che è importante avere delle, io le chiamo le strutture di impegno, cioè la routine, i micro obiettivi, anche la capacità di mantenere un focus, di essere focalizzati, no? Per esempio, una cosa che noto, forse adesso sta un po' diminuendo perché c'è un po' di saturazione delle notizie, no? Ma all'inizio c'era una ricerca continua di distrazioni. Per esempio, c'erano persone che sentivano 20 volte al giorno i notiziari, come se poi, diciamo, da un'ora all'altra potessero cambiare le notizie. Questo in realtà che cosa fa? Fa sì che ci sia un continuo richiamo di tipo emotivo che sposta l'attenzione su quello che stai facendo, no? E quindi ti distrae. È apparentemente una cosa gratificante perché ti toglie dall'impiccio di doverti impegnare in una situazione più difficile del normale, perché lavorare da casa richiede più impegno perché hai molte più distrazioni, però ti frega, quindi bisogna stare attenti a queste cose. Pietro, noi parliamo sempre di sport, no? Parlavi prima, insomma, alcuni eventi sportivi sono stati spostati, molti sono stati cancellati. È difficile ora tenere alta la motivazione, insomma, per chi fa sport, per chi aveva degli obiettivi, con gli obiettivi che non esistono più, insomma, almeno attualmente. Sì, questa cosa dello spostamento chiaramente rimescola le carte, no? Perché potrebbe essere che chi, per esempio, a breve termine era pronto all'evento olimpico, deve giocare, tenere duro, andare avanti ancora un anno, e magari in quell'anno cambieranno, se la sua focalizzazione diminuisce e invece qualcun altro può ritornare sotto, che magari era indietro per vari motivi, come preparazione, perché magari viene da infortuni, viene da preparazioni sbagliate, perché è giovane, eccetera. Quindi questa cosa è interessante, perché magari quelli che erano dati come favoriti, fra un anno non saranno più favoriti come prima. Quindi rimette molto in gioco tutto, e secondo me richiede anche una capacità di tenuta psicologica che forse non tutti hanno. Allora, e Pietro, da martedì riapriranno le librerie, no? E potremo andare a comprare uno dei tuoi libri, oppure proprio il tuo ultimo libro, Opus, no? Pietro Trabucchi, edito da Corbaccio, in cui potremo trovare un po' di cose che ci siamo detti, no? E l'automotivazione di cui sopra. E il sottotitolo infatti è: per raggiungere uno scopo, la nostra risorsa più grande è l'automotivazione. Questo libro ci insegna ad allenarla. Ecco, come alleniamo l'automotivazione? Beh, l'automotivazione l'alleniamo, non è questione, come molti possono pensare, di avere la tecnica segreta, no? Cioè una cosa che una volta che uno ti ha detto, in 5 minuti l'hai imparata. Si lavora cambiando lo stile di vita, cioè si parte dai dettagli, si parte dal quotidiano, si parte dalle piccole cose, creando tante abitudini che sono abitudini positive, e diciamo anche cambiando un po' il mindset, imparando alcune competenze che stiamo perdendo. Magari questo periodo ci aiuterà a recuperarle, come per esempio la forza di volontà, la capacità di resistere alle tentazioni, il fatto di tenere duro, il fatto di imparare a concentrarci e non distrarci in continuazione, no? Quindi tutte queste cose sono piccoli passi verso l'automotivazione, altrimenti rimaniamo prigionieri di un mondo dove abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica quello che dobbiamo fare, che ci indirizzi, che faccia un po' come il papà, che quando eravamo piccoli ci diceva: dai, allacciati la scarpa che è slacciata, no? Adesso è ora, insomma, di allacciarsele da soli. Appunto, io non credo nel motivatore magico, no? In quello che comunque è la persona che motiva gli altri, no? E tu lo dici benissimo nel tuo libro. In questo caso, però, in questo momento, sicuramente l'appoggio delle altre persone ci serve, no? Per comunque magari riuscire a affrontare meglio anche questo periodo. Tu cosa ne dici? Sì, certo. Un conto è dire: esiste il motivatore magico, cioè quello che mi fa il discorsetto e mi fa tornare la motivazione, e credere questo è sbagliato, è illusorio, diciamo. Un altro conto è dire: noi umani siamo animali profondamente sociali, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno degli altri in termini affettivi, in termini di aiuto, di solidarietà. È per questo che, come dire, credo ci stiamo dando tutti una mano, e effettivamente io sono rimasto molto colpito, anche emozionato, dal vedere il sacrificio delle persone, per esempio, che lavorano in ambito sanitario, no? Hanno superato 100 morti medici, infermieri, hanno fatto delle cose straordinarie che nella vita di tutti i giorni, probabilmente anche perché ci fa comodo pensare che il mondo sia più brutto di quello che è, no? Perché così abbiamo un sacco di alibi, e c'eravamo disabituati a vedere che gli esseri umani fossero capaci di tanto valore. Sì. E questo è una grande cosa che credo che ci porteremo dietro, cioè quello che hanno fatto queste persone, che non sono gli eroi famosi che vanno in televisione, è gente sconosciuta, però ha avuto la forza di cambiare le cose, e dobbiamo essere grati a tutti loro. Ecco Pietro, in chiusura, la retorica che ci dice che saremo delle persone migliori è vera, oppure per mettere a frutto questa esperienza dobbiamo fare qualcosa in più? Beh, io penso che sia, poi magari se viene enfatizzata in maniera continua diventa retorica, penso che siccome tutti in qualche modo abbiamo sofferto di questa cosa e siamo dovuti uscire da quella che chiamiamo la nostra area di comfort, cioè abbiamo dovuto mettere in gioco tutta una serie di di cose della nostra vita, sicuramente c'è la possibilità di diventare migliori, e credo che per molte persone questa è una certezza di diventarlo. Grazie mille a Pietro Trabucchi. Grazie, buona Pasqua a tutti allora. Allora, abbiamo parlato di automotivazione e a noi non ci serve andare troppo lontani, perché Ivana Di Martino, tu sei un esempio, riesci spesso, insomma, a trasformare una situazione negativa in un'opportunità per creare qualcosa di nuovo e produttivo, e usi spesso la tua passione per la corsa. Tu sei un ultramaratona a cui hanno tolto la strada sotto i piedi, però che succederà domattina? Bene, allora domani mattina intorno alle 9 partirò per fare 50 chilometri nel vialetto del box sotterraneo, e appunto adesso mi sto allenando per questa cosa e sto cercando di trovare tutte le strategie per resistere per 50 chilometri. Dovrò fare circa 290 giri. Ah. Abbiamo chiesto tutti i permessi, siamo in regola? Sì, abbiamo chiesto i permessi. Ho chiesto veramente, a parte gli scherzi, ho chiesto ai vigili se potevo farlo, cioè loro mi hanno, perché ovviamente li ho chiamati, e è stato un po' lì a sentire la cosa, ha avuto 5 secondi per riflettere, fa, ma è sicura però di riuscire a farcela? Guardi, io ci provo, comunque insomma sono abbastanza allenata per farci. Allora mi ha fatto anche l'imbocca al lupo e abbiamo scherzato un po' sopra su questa cosa. Tra l'altro gli ho detto, ma se vuole fare anche lei qualcosa, perché è una challenge, non è assolutamente un'impresa, non è una mia impresa, ma è uno scambio, veramente una sfida per tutti, e possono fare in contemporanea quello che vogliono tutte le persone che mi seguono e non mi seguono. A parte qualcosa di sport, dalla bicicletta appunto sui rulli, flessioni, 50 minuti di pratica di yoga, ma anche qualcosa anche di più riflessivo, come leggere 50 pagine, fare 50 biscotti, perché 50, infatti si chiama 50 challenge, perché dalla prima restrizione sono passati 50 giorni proprio lunedì, e quindi insomma per quello che faccio anche 50 chilometri. Sicuramente non era il caso di fare una distanza di gara, perché non mi interessava questa cosa. E quindi io nella fattispecie mangerò 50 biscotti, poi cosa devo fare? Poi magari dai, fai, non so, hai un balcone, fai avanti e indietro almeno 50 minuti, ce la puoi fare. Non credo, sì. No, ma mi collegavo più al fatto di dover fare poi una donazione, no? Ah beh, certo, allora se volete potete, io ho aperto una pagina sulla rete del dono proprio legata a questo progetto, a questa 50 challenge, potete appunto donare qualsiasi cifra, ed è, io mi sono appunto impegnata a dare il rispettivo della parte di appunto della parte della rete del dono, quindi quello che darete sarà tutto per il Policlinico di Milano, quindi per aiutare i medici, gli infermieri, tutto appunto l'ospedale per combattere il Covid. In più potete anche, io farò delle dirette durante i 50 chilometri in cui chi si collegherà, poi dopo io li chiamerò anche qualcuno e quindi sarà anche divertente, mi raccontate anche quello che state facendo, e poi potete anche taggarmi nella vostra storia su Instagram, il mio Instagram è ividima con appunto 50 challenge come hashtag, e io ve la condivido ovunque, e sarà per me una gioia, e fare una cosa tutti assieme secondo me ci porterà appunto a pensare di poter andare lontano. Quindi domattina dalle 9 inventiamoci qualcosa. Sì. Allora, no, Ivana, anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi insomma quando volete potete continuare a criticarci, perché parliamo di running e di sport in questo periodo, ma lo facciamo, o almeno ci proviamo, nel rispetto di tutti, della situazione, e continuiamo ad andare in onda anche nel rispetto di tutti gli ascoltatori che con affetto ci seguono ogni settimana. Nel frattempo, serena giornata a tutti. Buona Pasqua a tutti, grazie. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.